discorso di recitare questo sutra, il sutra del cuore della perfezione della saggezza, per due scopi: uno per mettere impronte positive nella propria mente, per realizzare il modo di esistere dei fenomeni della persona e l'altro per fare in modo che tutto, che il nostro incontro, per eliminare interferenze, fare in modo che il nostro incontro cioè tutto accade senza ostacoli. E quindi c'è la recitazione di questo sutra, di questo discorso breve, poi c'è di tradizione a quelli che seguono i buddisti, hanno la presa di rifugio, che è l'entrata nell'insegnamento, e dopo aggiusteremo velocemente la nostra motivazione e poi andrò nel discorso. Quindi siamo a pagina 4 della librerissima preghiera per gli insegnamenti, e quindi c'è questa recitazione. Mi prostro ai tuoi gioielli supremi. Così una volta udì il Bhagavan Dimaraya giungere sulla montagna a picco del volcano insieme a Vassasanga di Mone e Vassasanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Kateshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, e vedi anche i cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Kateshvara: come addestrarsi ogni filo del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, e il Bodhisattva Mahasattva Arya Kateshvara rispose al loro venerabile figlio di Sarabhadi: Shariputra, ogni filo del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoto in intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza, né c'è occhio, né orecchie, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente, il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estensione dell'ignoranza, fino ad includere vecchiaia e morte, estensione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimento, neppure mancanza di ottenimento. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, e la loro mente è sottostrazione senza paura. Essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha, dimoranti nei tre tempi, si sono anche completamente risvegliati all'insorpassabile perfezione della dominazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza: Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Shariputra, in questo modo che il Bodhisattva, Mahasattva, dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan è rimerso da quel samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Kateshvara dicendo: ben detto, figlio di lignaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio che tu mi hai mostrato, perfino i Tathagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarabhadi, il Bodhisattva Mahasattva Arya Kateshvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme al mondo dei dei uomini di Semide e Gandharva, esultarono e posero alte note la parola del Bhagavan. Dopo la presa di rifugio, per quelli che non la conoscono, si trova a pagina 8. C'è scritto rifugio e mente di illuminazione. Di solito noi facciamo in tibetano, però se volete la potete fare nella vostra lingua o non farla, non c'è problema. Sangye jadon sangye jano no jangyo bhagyo dhani gyatso jiyan Nangye jinsa yebe sanangye Lo la penche sangye drupa jano sangye jadon sangye jano no jangyo bhagyo dhani gyatso jiyan Nangye jinsa yebe sanangye Lo la penche sangye drupa jano sangye jadon sangye jano no jangyo bhagyo dhani gyatso jiyan Nangye jinsa yebe Poi si dovrebbe aggiustare la propria motivazione, la propria sia attitudine mentale per ascoltare questi discorsi, quindi si dovrebbe cercare di pensare che siamo qui per fare che la nostra mente diventa una fonte di felicità per noi stessi, quindi cioè incrementare le capacità della propria mente per fare in modo che la propria mente diventa una fonte di felicità e di benessere per noi, ma non soltanto per noi, cioè anche per gli altri, che la mente ha questo potenziale. Quando vengono completamente rimosse tutte le oscurazioni, le qualità sviluppate, questa mente può effettivamente diventare una fonte di felicità, di pace e di benessere per tutti gli altri. Quindi avendo questa motivazione, pensando che andremo a ascoltare e riflettere su questi vari discorsi, per fare in modo che questa mente diventa una fonte di benessere per gli altri. Questo stato dove la mente è completamente purificata e le sue capacità sono completamente sviluppate si chiama lo stato di Buddha. Quindi pensate, cercate di generare questa motivazione. Posso io ottenere lo stato di Buddha per essere del più grande beneficio a tutti gli esseri senzienti? Questa dovrebbe essere la motivazione giusta per il nostro incontro. Visto che questo insegnamento ha questo scopo, l'ascolto dovrebbe essere in sintonia con il discorso. Ok, quindi noi siamo rimasti nel nostro discorso, abbiamo visto quindi, il preliminare che sono la contemplazione sulla preziosa rinascita umana. Abbiamo identificato la sua entità, abbiamo identificato il suo potenziale e abbiamo identificato anche la difficoltà di ottenere quel tipo di esistenza. E adesso si dovrebbe entrare nel quello che è chiamato la parte del discorso che riguarda la presa effettiva dell'essenza di questa vita, ok? E per questo abbiamo tre suddivisioni, quindi entriamo adesso nell'addestramento effettivo per cogliere l'essenza dell'esistenza. E quindi questo si fa tramite, abbiamo tre sezioni, abbiamo la motivazione o l'addestramento all'interno del sentiero comune all'essere di capacità iniziale, l'addestramento della mente nei stadi del sentiero comune all'essere di capacità intermedio e l'addestramento della mente nei stadi del sentiero della persona di capacità superiore. Okay? Quindi ve lo ricordo, questi tre livelli di motivazione corrispondono a tre livelli di maturazione della propria mente, no? Quindi abbiamo tre ragioni per avvicinare alla pratica spirituale in questo contesto il buddismo. Uno inizialmente è per ottenere uno stato di benessere nel futuro, nella vita futura. L'altro sarebbe una persona che ha una più grande comprensione della natura delle cose, quindi che ricerca la pacificazione completa della sofferenza e percepisce anche il benessere che possa essere ottenuto nella vita umana come insoddisfacente per natura e invece cambia la caratteristica dell'insoddisfazione, quindi ricerca quello che viene chiamato il nirvana nel buddismo. Il nirvana non è un luogo, è lo stato di completa pacificazione della mente, okay? E l'altro, quindi questa persona ricerca la pacificazione individuale, la cessazione della sofferenza a livello individuale. Invece l'altro essere di capacità superiore è uno che prende in considerazione, motivato dalla grande compassione, prende in considerazione tutti gli esseri senzienti e ricerca uno stato dove può essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Questo è il veicolo della Bodhisattva, ok? Quindi la generazione l'addestramento superiore della persona di capacità superiore può essere attualizzato solo una volta che la persona si è addestrato nelle contemplazioni o ha generato anche l'attitudine della persona di motivazione intermedia. È la stessa cosa, l'addestramento, la generazione di questo stato di mente che corrisponde alla persona di motivazione intermedia può può essere effettuato, può essere generato soltanto quando le parti iniziali, che sono le contemplazioni comune all'essere di capacità iniziale, sono state attualizzate, quando la persona si è addestrato anche in questa fase dell'addestramento spirituale. Okay? Quindi è tutta questa cosa è una cosa organica, articolata, dove le realizzazioni o i stati di mente più elevati si basano su delle comprensioni e delle realizzazioni più inferiori, come il costruire una casa, no? Si comincia dal pavimento, cioè dal fondamento, come si dice in Italia? Fondamento? Fondamenta, costruisce questa cosa andando verso l'alto. Okay? Quindi adesso si prendete il testo in italiano, che pagina è? Perché io ho un testo diverso dal vostro. 24. Quindi siete pagina 24, c'è scritto 2D, il modo in cui prendere quell'essenza. Abbiamo visto queste tre divisioni, 1, 2, 3, che sono i tre addestramenti nei tre livelli di motivazione. E quindi incominciamo con il primo, 2D1, addestrare la mente nei stati del sentiero in comune con gli esseri inferiori. Ok? Quindi c'è scritto, no? La lampada del sentiero di Atisha asserisce. Chi sappia che coloro che con qualsiasi mezzo ricercano per se stessi la mera felicità di esistenza ciclica sono gli esseri di capacità inferiore. Okay? Quindi adesso abbiamo la definizione di ciò che è un essere di capacità inferiore, che okay? È una persona che ricerca la felicità all'interno dell'esistenza ciclica. Che cos'è l'esistenza ciclica? È questo continuo il continuo associarsi a dei costituenti fisico e psichici senza controllo, sotto il potere delle proprie azioni compiute, no? Quindi si compiono delle azioni e come risultato si sperimenta, la mente sperimenta delle esperienze. Adesso siamo nella sfera dell'esperienza umana, ma questo è il risultato di azioni compiute. Non abbiamo la scelta, non abbiamo il controllo per adesso di questo processo. Okay? Quindi una persona che ricerca la felicità all'interno di questo processo, di questa dinamica, okay, è una persona di capacità inferiore. Questo ha due suddivisioni: generare la mente che ricerca il mondo futuro e indicare il metodo per la felicità del mondo futuro. Okay? Quindi il primo, generare la mente che ricerca il mondo futuro. Come primo addestramento abbiamo la contemplazione, il contemplare la morte e l'impermanenza, e il secondo, il contemplare la sofferenza delle trasmigrazioni inferiori. Okay? Quindi queste sono le due preliminari diciamo, a questo addestramento, alla generazione di un'attitudine della ricerca della felicità nelle vite future, che okay? La prima è il contemplare la morte e l'impermanenza. Allora, rispetto alla morte e l'impermanenza, questo è stato il primo insegnamento del Buddha, il primo insegnamento del Buddha, quindi 2600 anni fa. Il suo primo discorso era il discorso sulla morte e l'impermanenza, e il suo ultimo discorso è stato anche un discorso sulla morte e l'impermanenza. Questo per sottolineare l'importanza cioè di contemplare, di capire bene, di contemplare, di essere consapevole di questa cosa. Di solito viene detto anche che delle impronte, la più profonda è l'impronta dell'elefante, no? E delle contemplazioni, degli insegnamenti i più potenti sono gli insegnamenti o le contemplazioni sulla morte e l'impermanenza. Ha un grande impatto sul discepolo, sulla persona, sullo studente. Okay? E quindi per noi principianti, e questo mi indirizzo alle persone che sono interessate e che seguono questo percorso, due contemplazioni al nostro livello sono molto importanti, è quella della preziosa rinascita umana e quella della morte e dell'impermanenza. Okay? Quindi l'insegnamento sulla morte e l'impermanenza o il generare questa contemplazione sulla morte e l'impermanenza ha tre divisioni. Okay? Queste tre divisioni abbiamo il primo, il contemplare che è la morte certa, il secondo, il contemplare che il momento della morte è incerto, e il contemplare che al momento della morte, all'eccezione della pratica spirituale, niente è di beneficio, assolutamente niente. Okay? Quindi di solito abbiamo, questo si chiama la contemplazione in nove cicli, quindi abbiamo queste tre radici, questi tre punti. ciascuno hanno tre suddivisioni, tre contemplazioni e si arrivano a tre conclusioni, ok? Quindi sì, per cominciare qualcuno di lingua materna italiana potrebbe leggere il paragrafo contemplare morte in permanenza, sarebbe di aiuto per me e anche per voi. Quindi se qualcuno tipo, so, che ha il testo tipo Davide, per favore. Contemplare, Alcuni esseri umani ignoranti non investigano e non analizzano neppure se la morte verrà. Sebbene la maggior parte pensi la morte alla fine arriverà, per la forza di pensare io non morirò, sino a quando non si è divenuti vecchi e attraverso il conteggiare gli anni, i mesi, i giorni, uno dopo l'altro, ancora si manifesta quel pensiero che spera di vivere per qualche tempo, anche se si è affetti da una malattia terminale o si è giunti già a 100 anni. A causa di questo, si è sempre sotto il potere delle preoccupazioni di questa vita. Essendosi allontanati dal pensiero della morte, non c'è ancora nessuna certezza che non si morirà addirittura domani. Sebbene siano preparate delle provviste per il prossimo mese, quando vi è una mente stabile che pensa, è forse certo che per quel momento io non sarò già rinato come un essere cornuto che ha una forma ben diversa da questo sostegno fisico? Questa mente, che automaticamente completa il metodo per la felicità della vita futura senza impegnarsi nelle attività di questa vita, è il Dharma stesso. Grazie. Quindi qui nell'ultima frase abbiamo la misura di ciò che è la pratica e dove incomincia la pratica del Dharma, la pratica spirituale anche in generale, possiamo estendere questa alle altre tradizioni. Quindi la pratica spirituale o la pratica del Dharma incomincia quando la mente si è girata verso al minimo il beneficio delle vite future, quando va al di là delle preoccupazioni di questa vita, allora la pratica spirituale comincia, altrimenti si chiama il materialismo, la mente che ricerca la felicità esclusiva di questa vita, questo non è la pratica del Dharma, possiamo ricercare la felicità di questa vita tramite pratiche spirituali come il buddismo, eccetera, o altre tradizioni, altre tecniche. Però questo non costituisce una pratica spirituale pienamente qualificata. La pratica del Dharma quindi incomincia quando al minimo la persona si è distaccata dalle preoccupazioni di questa vita e osserva qualcosa al di là di questa vita, come la vita futura, come o lo stato di nirvana o lo stato di Buddha. A quel momento questo è il minimo per avere una pratica del Dharma pienamente qualificata. Ok? Quindi, ecco perché Lamazon Kappa nel suo testo dei tre principali aspetti del sentiero dice, no, contrasta l'aggrapparsi a questa vita prendendo coscienza di quante le libertà e ricchezze che possiedi siano difficili da ottenere e quanto sia effimera la durata di questa esistenza. Okay? Quindi in questo testo, in questo paragrafo, in tre linee, lui spiega l'essenza di come fare che la mente, che è così afferrata, attaccata, che osserva esclusivamente le preoccupazioni di questa vita, quindi l'ottenimento di beni e servizi, perché di solito è in questo modo che una persona ordinaria ricerca, è in questo modo che noi ricerchiamo, diciamo, generalmente il benessere e tramite l'ottenimento di beni e servizi, e pensiamo che è in questo modo che otterremo la felicità. Okay? Quindi questo atteggiamento che osserva esclusivamente a questa vita impedisce la pratica spirituale e impedisce l'ottenimento di scopo più elevati e di stati di mente di più grande serenità. Okay? Quindi il primo scopo è di aiutare la mente a staccarsi dell'osservazione univoca, si dice univoca, di questa vita. E per questo lo dice molto semplicemente, no? Contemplando, prendendo coscienza di quanto le libertà e ricchezze che possiedi siano difficili da ottenere, uno, e due, in quanto è effimera la durata di questa esistenza. Quindi questo primo aspetto l'abbiamo trattato già con gli studenti, okay, che è la contemplazione sulla preziosa rinascita umana, e questo quando dice libertà e ricchezze, indicano i 18 attributi della preziosa rinascita umana che abbiamo percorso insieme, il suo potenziale e quanto è difficile a ottenere di nuovo. Okay? E adesso invece vedremo insieme, incominceremo stasera, okay, a capire quanto è effemera la durata di questa esistenza, quindi porre l'attenzione su o generare questa consapevolezza che effettivamente un giorno dobbiamo andare di questa vita. Allora, di solito il discorso della morte o dell'impermanenza è qualcosa che non piace, infatti noi facciamo di tutto per non prendere in considerazione questo aspetto della vita, sempre qualcosa di o dell'esistenza, sempre qualcosa di molto lugubre, si dice? Lugubre. Okay. Molto triste di pensare alla morte, eccetera. Però questa è la politica della, come si chiama? Lo struccio? Struccio. Struccio, no? Quando c'è un pericolo, si mette la testa nel buco per non osservare. Però questo non cambia niente al fatto, non cambia niente alla realtà. Non è perché noi non vogliamo confrontare la realtà, non vogliamo osservare la realtà, che questo non accade. E vedrete, e cercherò di presentarvi stasera, il beneficio, perché c'è un grande beneficio a andare a osservare la nostra realtà, che è quello di nascere, di invecchiare e di morire. Okay? C'è un beneficio a prendere coscienza di questo. Okay? Quindi di solito abbiamo, come dicevo l'altra volta, abbiamo quattro concezioni erronee che impediscono di prendere il pieno vantaggio di questa esistenza o di ottenere felicità in questa esistenza, prendere il suo cogliere il pieno vantaggio di questa esistenza. Il primo è, quindi sono quattro sovraimposizioni erronee che abbiamo sui vari fenomeni, sull'esistenza in generale. Il primo è la sovraimposizione del puro sull'impuro, ok? La sovraimposizione di felicità, dove infatti c'è sofferenza, cioè di proiettare felicità dove infatti è natura della sofferenza, di proiettare permanenza dove c'è impermanenza, questo è quello che vedremo insieme, e finalmente di proiettare la concezione di un sé, di un sé vero, indipendente, dove infatti non c'è un sé indipendente. Quindi quando si tratta della concezione di permanenza, la concezione di permanenza, quindi permanenza significa qualcosa che dura, che non cambia, di perdura e che non cambia, abbiamo due aspetti, ci sono due aspetti a questa concezione, un aspetto grossolano e un aspetto sottile. Quindi rispetto all'aspetto grossolano, la dissoluzione di qualcosa o la distruzione di qualcosa richiede una seconda condizione che agisce come causa o come agente all'interruzione della continuità di questo fenomeno. Okay? Per esempio abbiamo un bicchiere, si prende un martello, boom, si distrugge il bicchiere. Questa è l'impermanenza grossolana. Abbiamo un secondo, una causa esterna che agisce come agente che interrompe la continuità di un fenomeno particolare. Okay? Questa è l'impermanenza grossolana. Per ciò che riguarda l'impermanenza sottile, che è qualcosa di molto importante anche a prendere in considerazione, si tratta di questo processo sottostante, si dice sottostante, processo sottostante di dinamico, di continuo cambiamento delle cose, no? C'è un continuo cambiamento delle cose. I fenomeni che svolgono delle funzioni, i fenomeni che dipendono da cose e condizioni, quindi tutti i prodotti, come la penna, il tavolo, il proprio corpo, la mente, tutti questi, cioè il pianeta Terra, gli altri, tutte queste cose dipendono da cose e condizioni. È il momento in quale arrivano a produzione, sorgono all'esistenza, entrano in un processo di disintegrazione continuo, istante dopo istante, che non può essere fermato, è la loro natura. Okay? Quindi questo processo di costante mutamento non richiede delle condizioni esterne, non richiede, come nel caso dell'impermanenza grossolana, una condizione esterna per portare avanti questo processo di mutamento di cambiamento istante dopo istante. Quindi di solito si dice nel buddismo che in un schiocco di dita, questo si chiama il più breve tempo di un'azione completa, che okay? È un'illustrazione di tempo, i fenomeni impermanenti sono prodotti e distrutti 65 volte. Quindi questo significa che a livello subatomico, a livello molecolare, atomico, c'è questa disintegrazione continua. Quindi in uno schiocco di dita, per esempio questo bicchiere, questo orologio, il mio corpo, è prodotto e distrutto 65 volte. Quindi c'è questo flusso continuo di disintegrazione, okay? di cambiamento istante dopo istante. E non siamo consapevoli di questa cosa, ok? Quindi sì, cioè, durante il mio discorso sì, ci sono delle cose che non sono chiare, cioè c'è bisogno di spiegare di nuovo, di ripetere, ok? Per favore interrompetemi, cioè potete alzare la mano e chiedere spiegazione, perché altrimenti io vado avanti per un'ora e mezza, due ore, ok? Ovviamente non è lo scopo e che ci sia anche una comprensione generata dal vostro lato, quindi per favore è anche un servizio che mi rendete di chiedere delle spiegazioni se una cosa non è chiara, okay? Quindi questo processo, abbiamo visto, stavo dicendo, no, che questo processo dinamico di cambiamento continuo dei fenomeni non richiede una condizione secondaria. Infatti, le proprie cause che hanno prodotto, che hanno fatto sorgere l'esistenza questo fenomeno, queste proprie cause sono le stesse cause che producono il fenomeno e contribuiscono alla sua distruzione. Quindi un fenomeno è prodotto già con la sua capacità a essere distrutto, okay? Quindi un fenomeno non ha bisogno di condizioni esterne per essere distrutto. Ciò che produce il fenomeno è anche ciò che distrugge questo fenomeno. Quindi non ha bisogno questo processo di disintegrazione e perfine il scomparire del fenomeno, e questo scomparire del fenomeno, il fatto per esempio che un vestito dopo un po' di tempo ha un buco, o che il computer non funziona, o che la macchina non parte la mattina, questo è il risultato, è l'osservazione, è il risultato di questo processo sottostante di continua disintegrazione e di cambiamento del fenomeno, ok? Dovuto a questo processo di cambiamento continuo, istante dopo istante, a livello grossolano il fenomeno si rompe, o ci sono dei disfunzionamenti, o viene completamente disintegrato. Okay? Questa è la manifestazione di questo processo sottostante di impermanenza sottile. E quindi stavo dicendo che un fenomeno impermanente non richiede delle condizioni secondarie per la sua distruzione. Ciò che produce il fenomeno è ciò che distrugge questo fenomeno, perché un fenomeno, quindi possiamo prendere il corpo per esempio, il corpo è quello che viene chiamato un fenomeno potenziato da altro, nel senso che questo corpo dipende da cause e condizioni, e queste cause e condizioni non hanno la capacità a mantenerci, visto che queste cose e condizioni che producono il corpo non ha la capacità di mantenerci, ovviamente il corpo non ha neanche la capacità di durare per sempre, no? Le cause che producono il corpo, che producono un fenomeno impermanente, essendo loro stessi impermanente, anche il risultato stesso è condannato a scomparire. Quindi i fenomeni non sono sotto il loro proprio potere, sono potenziati, sono sotto il controllo, sono sotto il potere di cose e condizioni esterne, okay? E questo è dovuto al fatto che queste cose e condizioni esterne non hanno la capacità di mantenerci, il risultato anche non ha la capacità di dimorare. Quindi questo era, cioè, un'introduzione sull'impermanenza sottile, però quello che è molto importante di pensare a questo, però quello che ci riguarda principalmente in questo contesto, quando si parla del contemplare la morte e l'impermanenza, si parla dell'aspetto grossolano, ok? Che è la disintegrazione e la distruzione del corpo vero e proprio. Quindi, quindi in termini della persona, l'impermanenza grossolana è proprio, cioè, il fatto di morire, la morte. Quindi, il problema che abbiamo, un problema da un certo punto di vista, è questo pensiero che dice: no, io non morirò, non morirò. Che l'idea della morte è qualcosa molto remoto ancora per noi. Pensiamo che saremo ancora in vita, quindi dipende dell'età che abbiamo, per altri 40, 30, 20 anni, 50 anni. Abbiamo questo pensiero, è una certezza. Questo è il concetto di permanenza. Quindi questo pensiero, questa mente che dice io domani ci sono ancora, io non morirò. Questo, dal punto di vista della pratica spirituale, è il più grosso ostacolo. È il più grosso ostacolo. Infatti, finché questo è ciò, è questa attitudine che fa ostruzione a, diciamo, quest'afferrarsi, che fa ostruzione all'impegnarsi in delle pratiche che vanno al di là di questa vita. Quindi adesso cercheremo di esporre i vantaggi di andare a indebolire questa mente che è così certa che la morte arriverà molto più avanti. Quindi il primo dei svantaggi di continuare ad avere questa attitudine è che dovuto a quel tipo di mente pensiamo esclusivamente a attualizzare la felicità in questa vita. E pensiamo esclusivamente, quindi, a essere al riparo, cioè a proteggersi delle difficoltà di questa esistenza. E quindi pensiamo sempre: ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo. Semplicemente perché siamo esclusivamente focalizzate sul benessere di questa esistenza. Quindi, finché non abbiamo fatto spazio per il pensare alla prossima, a ciò che arriva dopo la morte, quindi senza aver sviluppato una certa consapevolezza che un giorno dobbiamo andarcene di questa esistenza, siamo sempre focalizzati sulla felicità di questa vita e quindi ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, ho bisogno di quest'altro. Quindi questo è il primo inconveniente, il secondo è che non pensiamo, è dovuto essere focalizzato sulla felicità di questa esistenza, e sul dimorare in questa esistenza, non pensiamo a delle cose più elevate, non pensiamo, non c'è spiritualità nella nostra vita, non pensiamo quindi a dopo questa esistenza, non c'è spazio per dei scopi più elevati, come la liberazione, cose di grande importanza come la liberazione, o la possibilità di ottenere lo stato di Buddha, per esempio, no? Tutti di noi hanno questa potenzialità. L'altra cosa è che anche se ci avviciniamo al buddismo per interesse varie, anche se ci avviciniamo al buddismo e che ci impegniamo in un certo studio, nella meditazione, eccetera, diciamo, è sempre compiuto per lo scopo di questa vita. Ci avviciniamo al buddismo o alla pratica spirituale per ottenere felicità in questa vita. Quindi, in questo contesto, le virtù che vengono generate sono molto deboli, sono di poco potere, no? Cioè, nel senso, sì, quello che viene compiuto avvicinando il buddismo, che è una capacità proprio di portare l'essere a uno stato completamente al di là della sofferenza, quindi già c'è uno sfrego da questo punto di vista. E dall'altro canto, visto che tutte queste meditazioni, pratiche, studio che facciamo sono indirizzate esclusivamente a ottenere la felicità di questa vita, queste azioni, queste attività hanno poco potere. Questa è un'altra cosa. Quindi sì, non siete d'accordo, avete il diritto di manifestarvi. D'altro canto, anche se quindi ci impegniamo in queste varie pratiche, eccetera, eccetera, la nostra pratica comporterà necessariamente delle azioni non virtuose, degli errori, dell'infrazione all'interno dell'etica, ok? Necessariamente, perché sarà sempre associato all'ottenimento di cose per questa vita, quindi era sempre miscolato a attitudini come attaccamento, brama, avversione, e quindi anche le pratiche che facciamo sono sempre associate a degli errori. Diventa molto difficile, per esempio, in questa forma di mente, questa attitudine, di mantenere un'etica molto pura. Molto difficile. Quindi le nostre azioni, invece di essere delle azioni che al 100% producono esperienze di felicità futura, sono miscolate con aspetti che producono sofferenze anche in futuro. Okay? Il quinto svantaggio di non sviluppare una consapevolezza della morte è che è impossibile evitare il procrastinare, una forma di pigrizia che si chiama il procrastinare. Sì, al buddismo, sì, la pratica spirituale, la meditazione, lo studio, tutta quella filosofia, tutte queste cose, sì, mi piacciono, però adesso non ho tempo. Domani, prima devo andare in pensione, okay? Prima devo fare questo, prima i figli devono andare all'università. Cioè, è impossibile il prevenire la procrastinazione. Quindi questo atteggiamento di posporre le cose è dovuto al non aver sviluppato una mente, non aver indebolito la concezione che si afferra alla permanenza, nel senso che noi tra 10 anni ci siamo ancora. Dovuto a questo si postpone sempre le cose, sempre, sempre, sempre. Di solito i miei maestri dicevano, un giorno mi hanno detto, no, non si dovrebbe neanche posporre al pomeriggio quello che puoi fare la mattina. È difficile. Ok, quindi dovuto essere focalizzato, dovuto a non aver sviluppato una consapevolezza della morte e dell'impermanenza, siamo quindi focalizzati sull'ottenere la felicità nel momento presente, e dovuto a questo passiamo la nostra vita in distrazione, nel dormire, nella letargia. Okay. Nel parlare a me, passare ore a parlare a vanvera, nel mangiare, nel bere, nel fumare, nel andare in discoteca, queste cose. Okay. E in questo contesto, quindi, è impossibile produrre uno sforzo che è necessario per ottenere le varie realizzazioni spirituali del sentiero, perché queste varie realizzazioni che possono essere ottenute, queste grandi qualità interiore, no? Che permettono all'essere di dimorare in grandi stati di serenità e di essere di un aiuto straordinario anche agli altri, vengono prodotti con grande sforzo. Finché la mente è focalizzata su oggi, a questa vita, oggi, eccetera, è impossibile generare lo sforzo necessario per attualizzare queste qualità, possibile. Okay? Quindi passiamo il nostro tempo, come dicevo prima, in distrazioni varie, invece di cogliere l'essenza di questa esistenza. Okay? Quindi di solito, dovuto al non avere questo concetto, che possiamo andarcene a qualsiasi momento questa vita può essere recisa da cose e condizioni varie, siamo sedotti, sedotti? Okay? Sedotti? Sedotti dall'esperanza di passare molto tempo in questa esistenza, no? E quindi in questo contesto automaticamente viene creato molto attaccamento è molto, molto desiderio, brama per vari beni e servizi, no? È come quando si va in viaggio, no? Quando fate un viaggio, no? Prendete il sac a pelo e andate in viaggio, anche se vi fermate in un posto, non cominciate a decorare la camera di albergo nella quale siete, non cominciate a comprare delle cose per mettere nel posto dove siete, perché sapete che non siete in questo posto per molto tempo. Quindi non avete quell'atteggiamento che sta lì a preparare le cose, a farvi il posto ben confortevole, perché sapete che domani o dopodomani ve ne andate. Quindi è esattamente la stessa cosa. Visto che abbiamo il concetto che forse dimoriamo per lungo tempo in questa vita, anzi ne siamo sicuri che dimoriamo lungo tempo in questa vita, allora passiamo tutto il nostro tempo a organizzare le condizioni per ottenere la felicità nell'istante, ok? Quindi dovuto al desiderare felicità nell'istante, automaticamente c'è uno sviluppo della brama per ottenimenti, per ottenere dei beni e dei servizi, ok? Quindi in questo contesto si sviluppano quello che vengono chiamate le otto attitudini mondane, le otto dharma mondani, ok? Che è la sfera nella quale noi ci muoviamo. Quindi questo significa che siamo felici, la nostra mente oscilla, no? Tra due attitudini di felicità e infelicità quando otteniamo qualcosa o non otteniamo qualcosa, quando c'è un'esperienza di piacere e quando non c'è un'esperienza di piacere, quando c'è una certa fama o quando c'è invece incognito, o quando siamo lodato invece quando siamo criticati. Quindi la nostra mente sta, visto che ricerca la felicità di questa vita, ricerca è sempre in queste otto attitudini e quindi la mente diventa anche molto debole a un certo punto, perché dipende da queste varie feedback, no? Da queste varie sollecitazione per essere felice, ok? Quindi dovuto a queste attitudini, visto che c'è molto attaccamento per l'ottenere, per la percezione che hanno gli altri di noi, per non ricevere critiche, eccetera, automaticamente ci sarà anche molta avversione, è automatico. Molta avversione per chi ostacola l'ottenimento di queste varie cose, o chi ci critica, ok? O chi ostacola il contatto con una certa situazione, o l'ottenimento di un certo bene, o di una certa situazione, ok? Quindi, visto che abbiamo automaticamente molto desiderio per queste varie cose, abbiamo l'opposto, anche molta avversione, c'è uno sviluppo di tanta avversione per chi viene percepito come un pericolo nell'ottenimento di queste varie cose. Quindi c'è una proliferazione di quello che vengono chiamate le afflizioni mentali, ok? Brama, attaccamento, orgoglio, avversione, belligeranza, risentimento, invidia, tutte queste cose. E in questo contesto tutte le azioni che andiamo a compiere sotto l'influenza di questa attività mentale sono delle cause della sofferenza futura. Uno. Secondo, nel momento proprio nel quale queste attitudini si alzano la mente, la pace, la serenità non esiste. Quindi dovuto ad avere questa proliferazione di attività mentale che creano sofferenza nell'istante ma anche nel futuro, è come andare a recidere o a fare del sabotaggio, è una specie di sabotaggio rispetto alla potenzialità che abbiamo di creare o di ottenere la felicità nel futuro, o la liberazione o queste cose. Quindi invece tutte queste azioni ci produrranno, ci avranno il pieno potere per proiettarci in stadi di sofferenza. Quindi, cioè, ha senso quello che vi sto dicendo? Sì. Io voglio dire una cosa. Sì. Faccio difficoltà, buonasera a tutti intanto. Faccio difficoltà a concepire l'idea di morte. Non ho mai studiato, prometto, il buddismo, sono un ignorante curioso. Però io mi immagino che sia tutto vivo, in qualche modo, e che non esiste il nulla. E che sono abbastanza d'accordo sul concetto di impermanenza. E non riesco a immaginare la vita che non vive, che non perdura. Mi sembra che la vita viva sempre, certo, nella sua continua trasformazione. Assolutamente. E poi è un po' anche un assioma scientifico, non la si fa, non la si distrugge, no. Tutto si trasforma. Siamo, nell'esempio che faceva lei, nello schiocco di vita, come se si muore, perché se si muore si rinasce 60 volte. E quindi non riesco a prendere in considerazione seriamente l'idea di morte. Okay. Prendo in considerazione seriamente di impermanenza, di cambiamento continuo, cioè come se tutto dovesse continuare a cambiare per rimanere tale. Allora, sì, le cose cambiano, non possono rimanere tale. Okay, questa è una dicotomia, queste due cose. Cambiamento significa non dimorare tale, però vedo dove lei sta andando, nel senso che è giusto che non c'è il nulla. Il nulla non c'è. Quindi che cos'è la morte? Che cos'è? È semplicemente la separazione della mente, della continuità di coscienza con questo corpo, ok? Però questa continuità di coscienza va avanti. Quindi da questo punto di vista, no? Non c'è l'interruzione della continuità mentale. A un livello molto sottile, a un livello grossolano, la personalità, le dinamiche della mente, di questa vita, non tutte le sue, la propria personalità, tutte queste cose si dissolvono al momento della morte, e ciò che anche dimora è questa continuità della coscienza molto sottile che è un chiaro conoscitore. Quindi da questo punto di vista è chiaro. Però la persona di questa vita muore. Persona di questa vita muore a un certo punto, cioè noi in questa vita abbiamo certe condizioni, abbiamo un corpo, ok? Io mi chiamo per esempio Olivier è imputato, esiste in dipendenza di questa mente, di questo corpo, ok? Quindi sì, a un certo punto la mia mente quindi si dissolve, no? C'è la disintegrazione di questo corpo. E questa mente a un livello molto sottile dopo si riassocia a un altro costituente, a un costituente fisico. Non è più Olivier, perché non è più Olivier, esiste solo in dipendenza degli aggregati fisico-psichici di questa vita. La persona, cioè l'essere che verrà imputato o etichettato o che esisterà in dipendenza degli aggregati della prossima esistenza, è un altro essere. Non è completamente diverso, ma non è neanche lo stesso. Quindi, nel senso che cioè la persona che esiste in questa vita non è la stessa della persona che esiste nella vita futura, e non c'è neanche qualcosa che passa da una vita all'altra. Okay? C'è solo, come diceva lei, questa continuità di istante. A un livello molto sottile, la coscienza, che ha le caratteristiche di essere un chiaro conoscitore, quindi solo ha la qualità di illuminare o di riflettere gli oggetti con i quali entra in contatto, non funziona come uno specchio. Non pensate anche che la coscienza è tutta questa attività, che la coscienza, diciamo, che a un livello sottile corrisponde a queste attività concettuali grossolane che abbiamo. Queste si dissolvono, questo sono un risultato. Questo è la mente umana sperimentata, è il risultato della mente umana, però la coscienza sottile dal quale sorgono queste manifestazioni più grossolane della mente è ciò che continua istante dopo istante, no? Quindi a un certo punto di vista non c'è, non, è chiaro che non c'è interruzione della continuità mentale, però la persona, inclusa in queste varie continuità, muore e nasce. Okay. Non so se ho risposto al dilemma. Non so, perché io capisco le cose dopo un po' che sono state dette. Sì, sì, ho sì, un sì. tempo abbastanza lungo di sperimentazione. Sì, sì, sì, sì. Cioè, anche io sono un po' così. Quindi, cioè, la morte, che cos'è? La morte nel contesto del buddismo è la separazione tra il corpo e la mente. Quindi la nascita, che cos'è? La nascita è l'aggregazione di questi due componenti, coscienza e corpo, no? Quindi questa è la nascita, sì. Volevo sapere se c'è qualcosa che non dipende da cause e condizioni. I fenomeni permanenti. Abbiamo due tipi di sia un esistente è o permanente o impermanente. Quindi i fenomeni impermanenti sono i fenomeni composti, che dipendono da cause e condizioni, sono anche mutualmente inclusivo o sinonimo con prodotto, e svolgono delle funzioni. Invece abbiamo anche dei fenomeni permanenti, che non dipendono da cause e condizioni, e quindi che non sono soggetto a questa momentaneità, a questo processo di momentaneità, istante dopo istante, di cambiamento. No? Sono, per esempio, allora, lo spazio non composto, ok, che cos'è lo spazio non composto? È l'assenza di contatto ostruttivo. Per esempio, qui c'è un'assenza, o tra noi due, c'è l'assenza di contatto ostruttivo. Questo è il contatto ostruttivo, no? Qui c'è l'assenza di ostruzione. Questa assenza di ostruzione è un fenomeno negativo, non affermativo. Quindi, mi spiego. È la negazione di qualcosa senza suggerire nessun niente dietro. Sto semplicemente negando l'ostruzione. Questa negazione dell'ostruzione è un fenomeno permanente che non cambia istante dopo istante, perché non è prodotto, non dipende da cause e condizioni. Okay? Abbiamo questo, abbiamo la vacuità, questo non ne parliamo stasera, okay? Abbiamo anche un concetto. Un concetto o una, quello che viene chiamato anche una generalità del significato, una rappresentazione concettuale, è un fenomeno permanente. Per esempio, se pensate alla vostra casa, l'immagine che sorge alla vostra coscienza concettuale della vostra casa, della vostra stanza, eccetera, questa rappresentazione concettuale è un fenomeno permanente, non cambia istante dopo istante. Sono delle cose... Non lo penso più? È impossibile che non devi più pensare. Non penso più a quella casa. Allora si dice che è un fenomeno permanente occasionale. Certe volte è presente, certe volte non è presente. Ma diciamo, significa che è impermanente, significa che non è in un processo di mutamento istante dopo istante. È a questo che ci riferiamo. Comunque questi sono discorsi più filosofici. E torniamo alle nostre cose. Okay. Quindi adesso vediamo quali sono i benefici invece di pensare alla morte e all'impermanenza. Quali sono i benefici? Quindi anche se abbiamo poca comprensione di questa impermanenza, c'è un beneficio. La poca comprensione sarebbe, per esempio, lasciare questa supposizione che è possibile che domani non ci sto, okay? Che tra qualche settimana è possibile che qualcosa accada e che io me ne vado da questa esistenza. Okay? Quindi con questa mente, allora incominciamo a vedere gli amici, le possessioni materiali, vediamo che queste cose non ci accompagnano nella vita futura, okay? E quindi smettiamo di avere così tanta brama per l'ottenimento di queste varie possessioni, per essere sempre per la ricerca sempre di queste varie compagnie, eccetera eccetera, no? Perché adesso il problema è che tutto il nostro tempo lo passiamo a accumulare queste varie esperienze, queste varie relazioni, questi vari oggetti, no? Perché pensiamo che perché siamo preoccupati esclusivamente all'ottenere la felicità in questa esistenza. Se qualcuno incomincia a pensare che forse domani o tra un po' di tempo è possibile che se ne va, allora la mente automaticamente si distacca tutte queste cose e vengono percepite come non così importante, non così importante, perché vediamo che cioè, non le possiamo, no, non sono di beneficio, non le possiamo portare con noi. Quindi naturalmente, con questo, con po anche poca comprensione che un giorno dovremo andarcene, anche con poca comprensione di questo, la mente desidera cogliere il vantaggio di questo, cogliere l'essenza di questa vita, utilizzare questa esistenza per qualcosa di molto più profondo, di molto più elevato. Quindi, sì, a sfruttare questa condizione che ha e quindi impegnarci in attività virtuose, okay? Impegnarci in attività virtuose. Automaticamente dovuto al non considerare come così importanti tutte queste cose, come i beni materiali, la relazione, tutte queste cose, c'è una diminuzione di questa proliferazione della frizione mentale. Automaticamente c'è una diminuzione della proliferazione della frizione mentale e quindi la mente ne guadagna un po' in serenità. Incomincia a guadagnare serenità, dovuta a un certo distacco in relazione a tutte queste cose che adesso ricerchiamo univocamente. Quindi, visto che tutto incominciamo a capire che tutto è impermanente, che noi siamo impermanenti, quindi che dobbiamo andarcene di questa esistenza, c'è una riduzione dell'attaccamento per i possedimenti o per l'accumulazione. E anche c'è una riduzione dell'attività mentale dell'orgoglio, anche questo beneficio che l'orgoglio diminuisce. Quindi con una consapevolezza autentica, che dopo vedremo più avanti come si sviluppa effettivamente una consapevolezza della morte e dell'impermanenza. Abbiamo visto che c'è questa contemplazione in 9 cicli che ho accennato all'inizio, adesso siamo ancora vedendo i benefici di farlo, quindi con una consapevolezza pienamente sviluppata della morte e dell'impermanenza, uno non ricercherà, non si metterà più a ricercare in un modo così esclusivo, così con così tanta fatica, i vari possedimenti mondani, che vengono percepiti come della pulla, cioè completamente privi di significato e privi di valore. Okay? Quindi questo è il beneficio, e le percepisce anche come una fonte di deception, come si dice deception? Falsità? Come? Distrazione. No, distrazione, sono hanno una natura di insoddisfazione. Insoddisfazione in certo modo. Quindi, in questo contesto, non ricercando più esclusivamente questi vari ottenimenti o vari possedimenti mondani, la mente si distacca o non si impegna più nelle azioni non virtuose, che sono compiute esclusivamente per ottenere queste varie cose, cioè per ottenere i varie cose di questa vita. Questa è la porta per tutte le azioni non virtuose, no? Come il rubare, come il mentire, cioè, andare con il partner, cioè degli altri, cioè, tutte queste cose accadono perché la mente ricerca esclusivamente la felicità di questa vita. Visto che queste cose non vengono più percepite come così importanti, ma infatti come un po' prive di significato e insoddisfacente, è una fonte di insoddisfazione, più che insoddisfazione, un'altra cosa, cioè, non mi viene stasera. Comunque, Inganno. inganno, grazie, inganno, ok? la mente si chiude in un certo modo alla porta alle attività non virtuose. E si fa invece sforzo molto più costante per accumulare azioni virtuose altruistiche che sono fonte di felicità per il futuro. Quindi in questo contesto siamo in grado di apportare grande significato a questo corpo e a questa vita, come risultato c'è un incremento ricercando dei livelli che vanno un livello che va al di là di questa vita, automaticamente quindi si ottiene felicità nel futuro, ma c'è anche un beneficio immediato nella vita presente, no? È questo che è paradossale, come dicevo stamane dai studenti, è proprio non ricercando la felicità di questa vita che si ottiene la felicità di questa vita, ok? Perché ricercando felicità per esempio nel futuro, allora la mente la persona incomincia a entrare in un certo comportamento etico, okay? A diminuire la proliferazione della frizione mentale come l'attaccamento, come la brama, e quindi automaticamente anche l'avversione diminuisce, okay? E questo ha come risultato una pacificazione della mente, e questa pacificazione della mente viene sperimentata in questa esistenza. Quindi la pace, la serenità che viene guadagnata dovuto alla pratica del sentiero, che ricerca qualcosa al di là di questa esistenza, questa pace è sperimentata adesso. Okay. Invece, se ricerchiamo la felicità di questa vita, quello che faremo è quello che facciamo sempre, no? Andremo sempre alla ricerca dell'accumulazione delle varie cose materiali, di relazione, di esperienze varie con persone, e alla fine quello che si sperimenta è sempre l'insoddisfazione, sempre l'infelicità, sempre l'agitazione. Quindi il momento, la Mazzon Kappa nel suo trattato dice che è l'unico momento per compiere il nostro proprio scopo è adesso che abbiamo ottenuto questa vita umana molto preziosa, qualificata da attributi e da libertà. Quindi è proprio il momento di cogliere l'essenza di questa vita. Okay? La più grande parte, poi aggiunge, no, che la parte maggiore degli esseri senzienti sperimentano dei stati di sofferenza, dei stati sfortunati di sofferenza, no? E molto, molto pochi sono quelli che accedono ai stati elevati, agli stati di benessere. E tramite quelli che sono in questi stati fortunati, pochi hanno un'esistenza pienamente qualificata di questi vari attributi e libertà che noi abbiamo. E tramite quelli che hanno questa vita preziosa umana completamente qualificata, pochi l'utilizzano, okay? Pochi l'utilizzano. E la ragione per questo, la ragione per il non utilizzo o il non sfruttare l'esistenza, la preziosa esistenza che abbiamo e questo potenziale straordinario che abbiamo, è semplicemente il pensiero: io domani ci sono ancora, tra 10 anni, 20, 30 anni ci sono ancora. Quindi dovuto a questo pensiero, questo taglia le gambe, in certo modo, al desiderio di impegnarsi in un modo autentico nella pratica spirituale. E ci sono delle domande? Ovviamente poi capisco che si sono delle persone nuove nell'ambito del buddismo, può essere un discorso molto... Sì, vai. Allora, la prima era... Parla sempre di attaccamento alle cose, ma logicamente penso si riferisca anche attaccamento alle persone, ai figli, alle relazioni. Sì, sì. Perché penso uno dei maggiori ostacoli sia anche l'attaccamento ai figli, che è una grossa... In generale, sì. Assolutamente. E la seconda cosa era, lei prima ha parlato di persone più sfortunate che ci sono e che non avranno mai nella loro vita la possibilità di avvicinarsi a un modo diverso di ragionare, nemmeno... sognarselo che possa esistere. E queste persone possibilità hanno di riscattarsi la vita, cioè di costruire qualcosa per una loro eventuale vita futura. Beh, allora quindi due domande. La prima domanda, sì, rispetto, l'avevo detta, rispetto all'attaccamento, sì, quando parlo di oggetto in generale, in questo contesto sono oggetti di conoscenza, l'oggetto che è percepito da una mente, quindi un oggetto di conoscenza che è mutualmente inclusivo con esistente, si riferisce a cose funzionali, oggetti inanimati e persone. Okay? Quindi, sì, quindi abbiamo attaccamento per tutto ciò che è percepito come piacevole, abbiamo attaccamento. Quindi bisogna ridurre l'attaccamento. Ridurre l'attaccamento non significa diventare, insensibile. Ecco, insensibile o inattivi. Che non importa, no? Che c'è questo indifferente, grazie, non significa diventare indifferente, no, l'attaccamento è diverso dall'amore, bisogna fare la distinzione tra l'amore e l'attaccamento. L'amore va sempre incrementato, sempre, non c'è limite a questa cosa, l'attaccamento va eliminato. Che cos'è l'attaccamento? L'attaccamento è una mente che desidera il contatto per il proprio beneficio personale, per la propria felicità personale. È una mente che ricerca il contatto a un certo livello, anche il possesso, il godere, no? Perché ne ottiene una soddisfazione immediata. L'amore è semplicemente il desiderio che l'altro sia felice. Punto. Ti voglio bene, sì, mi rendi felice. Di solito noi funzioniamo così, no? Noi abbiamo un certo amore, no? Però è sempre miscolato all'attaccamento. È dovuto al fatto che il nostro amore è miscolato all'attaccamento, a un certo punto, il nostro amore non è privo di condizione. Non è privo di condizione. Diciamo, abbiamo amore per qualcuno, sì, questa persona ci rende anche felice, se ce lo rende. Se no questa persona non ci rende l'amore o la felicità che noi pensiamo ottenere, allora è finito. Perché questo è l'attaccamento, questa è proprio la manifestazione dell'attaccamento. Quindi l'attaccamento va eliminato. Okay? Quindi noi siamo nel reame del desiderio e quindi la mente e la coscienza funziona in questo modo. A sete per i propri oggetti sensoriali rispettivi, quindi ricerchiamo gli oggetti visivi piacevoli, i suoni piacevoli, gli odori piacevoli, i gusti piacevoli, il contatto piacevole, ok? Questo è la mente proprio a sete per queste cose, questa è la nostra dinamica, il suo modo di funzionare. E l'opposto automaticamente vuole essere separata da gli oggetti visivi spiacevole, gli odori spiacevole, i suoni spiacevole, eccetera, eccetera. Okay. Poi l'altra è sono relazione. Sono persone che soffrono, che non hanno la possibilità. Allora, il fatto di aver incontrato l'insegnamento del Dharma, okay, questo è un karma particolare. Bisogna aver creato delle azioni particolari, bisogna aver creato delle azioni meritorie nel passato per entrare in contatto con quel tipo di insegnamenti. Quindi è un risultato, no? Questo risultato che il contatto con questo insegnamento è dovuto a causa e condizione. Se qualcuno non ha creato causa e condizione, non può sperimentare un risultato, qualsiasi. Qualsiasi un'esperienza di felicità, di beneficio, di benessere o di sofferenza dipende da cause e condizioni specifiche. Quindi uno non può sperimentare sia un risultato negativo che un risultato positivo se non ha individualmente creato la causa per quel tipo di esperienza. Quindi sia nel positivo sia nel negativo. Quindi le persone che non hanno creato le cause o che non hanno accumulato le cause virtuose per incontrare l'insegnamento del buddismo, non lo incontrano in questa esistenza. Okay? Quindi ci sono delle persone anche poco distante da questo posto che non hanno mai sentito nella loro vita, e che forse non lo sentiranno mai, la parola neanche Buddha. No? Cioè, è completamente fuori della loro sfera di conoscenza, semplicemente perché non hanno questo karma particolare che abbiamo. Ecco perché noi siamo molto fortunati, ecco perché questo è quello che chiamavano la preziosa rinascita umana. Non parliamo di una rinascita umana, ma di una preziosa rinascita umana, effettivamente perché abbiamo anche questo componente nella nostra esistenza. Quindi ecco perché lo dobbiamo sfruttare. Quindi per le persone che non hanno incontrato il buddismo, ci sono altri supporti che aiutano la persona a crearti le cause di felicità futura. Non ci sono altre, qualsiasi la dottrina spirituale autentica, okay? Come il cristianesimo, per esempio, sono di beneficio agli esseri perché li aiutano a ridurre le loro afflizioni mentali, a creare azioni virtuose per produrre cause di felicità futura. Okay? L'unica cosa che non esiste, quindi per tutte le tradizioni spirituali autentiche hanno questo scopo di incrementare la felicità degli esseri e di diminuire la loro sofferenza. Okay? Questi sono i sistemi spirituali autentici. L'unica cosa che non hanno e che il buddismo ha è la liberazione completa tramite la saggezza che realizza il modo di dimorare dei fenomeni. Questo non c'è. Questo è esclusivo, è un'esclusività del buddismo, quindi le altre persone hanno, dipende dalla cultura alla quale appartengono, anche sistemi che le aiutano a diventare degli esseri migliore, e diventare un essere migliore, sorpassando le proprie limitatezze, sviluppando le qualità, eliminando difetti, automaticamente una persona crea le cause per la felicità futura. Se uno non è neanche recettivo a queste altre tradizioni che esistono all'interno della nostra cultura, allora diventa molto difficile per un essere di trovare diciamo, delle linee di guide, perché naturalmente la nostra mente scende verso il basso, naturalmente, se la lasciamo andare, naturalmente c'è uno sviluppo di brama, di orgoglio, di avversione, e che diventa sempre più rampante, sempre più potente, quindi diventa molto difficile. Non c'è, sì, non c'è più difficile, almeno che la persona abbia delle predisposizioni molto particolari stabilite in vite passate, che è una persona che naturalmente ha un comportamento etico, che naturalmente ha dovuto a un'educazione, eccetera. Ha sì, questo comportamento e atteggiamento etico molto difficile e anche altruista, perché essere etico non basta, bisogna essere anche altruista. Difficile. Grazie. Prego. Una curiosità, Sì. se la materia, se nulla non esiste, partendo dal discorso di prima, e quindi siamo immersi nel pieno, costantemente, e la materia è fatta di particelle subatomiche. Tra me e quel tavolino, c'è realmente una separazione? Nel senso, la dualità esiste a livello sostanziale o solo a livello formale? Cosa vuoi dire con la... scusate, cioè, ci possiamo dare del tuo, forse se accettate è più semplice per me. Grazie. Quindi cosa intendi per sostanziale? Nel senso che se le cose sono, se non c'è separazione tra un oggetto che noi identifichiamo secondo la percezione sensoriale separato rispetto all'altro, perché in realtà non c'è uno spazio di vuoto che lo separa, ogni singolo elemento, diciamo che può essere inteso come un continuum o un tutto parte di una totalità che altro può essere intesa che come un universo, diciamo, che non ha inizio né fine. Ok, non so allora, se okay. Non so spiegare. Vediamo, ok. Quindi la dualità esiste. La dualità esiste. La dualità, che cos'è la dualità? È semplicemente la distinzione tra un soggetto percepiente e un oggetto percepito. Quindi la dualità nel buddismo è questo, no? Qui c'è un oggetto percepito e c'è un soggetto percepiente, che è una coscienza, e questo oggetto, questa coscienza, non sono della stessa entità sostanziale, non sono della stessa sostanza, della stessa, sì, sostanza. Quindi la dualità c'è, ok? La dualità c'è, da questo punto di vista. Poi, anche a livello della fisica moderna, no? Anche se, per esempio, il muro è composto di particelle, infatti, se guardiamo le cose a un livello, cioè a un livello proprio subatomico, c'è più spazio vuoto che materia. Okay? Quindi è paradossale, ma se riguardiamo la composizione dei fenomeni, diciamo, solidi, cioè composto a livello della materia, vediamo che c'è più spazio vuoto che materia effettiva. Quindi il vuoto in questo contesto esiste, okay? anche tra noi due, da un certo punto di vista c'è del vuoto, da un altro punto di vista si trovano anche della materia, perché c'è dell'aria, e l'aria è composto, no? Dell'ossigeno, c'è dell'elium, sono tutte queste particelle. Però, quindi, dove vuoi andare? Nel senso che il vuoto non è nulla. No, il vuoto, cioè, non è il nulla. Vuoto è il campo dove l'invisibile si dà. Ok. E questo invisibile è materia, appunto, invisibile, e le cose non so, le cose sono scontornate, gli oggetti, nel senso che la materia è legata, non c'è una divisione tra un individuo e l'altro, tra un individuo e l'albero, o sono tra composti, l'albero e l'India, per sono composte dalle stesse cose. E sono unite anche le parti. A un certo livello, quindi anche sì, giusto, anche sì, diciamo, a un livello delle apparenze grossolane siamo separati, invece no, a un livello più sottile non c'è questa separazione. E poi, in termini di ciò che compone le particelle del mio corpo e ciò che compone le particelle di questo tavolo, sono anche in completo, c'è anche uno scambio, no? A un livello subatomico tutte queste particelle adesso stanno girando, okay? E quindi tutto è in uno stato vibratorio, okay? Sì. Tutto è in uno stato vibratorio, e però a certi punti abbiamo della concentrazione di queste particelle. Questa concentrazione delle particelle compongono i vari elementi che noi utilizziamo, che sono più solidi, okay? Ma questo è più della fisica anche del buddismo, okay? Quindi io sono molto limitato in questo campo, quindi non farmi troppe domande del genere, per favore. No, se arriviamo a concepire la non separazione, arriviamo a concepire l'unità e quindi la non dualità, e quindi la morte non esisterebbe. Allora, nel buddismo è un po' diverso. Quando si parla di unità, quando si parla di unità e quando si parla di vuoto, i concetti nel buddismo sono diversi. L'unità, nel senso, c'è una similitudine tra tutti gli esseri, e che tutti gli esseri hanno la stessa natura. Hanno la stessa natura, hanno lo stesso modo di esistere, ok? Quindi quando si distinguono due livelli di realtà, la realtà convenzionale, che è quello che appare, ha delle coscienze di tipo convenzionale, che realizzano i fenomeni con dualità, ok? Quindi soggetto, oggetto, separazione, e c'è una mente che si impegna tramite un'analisi che ricerca il modo di esistere dei fenomeni, come tutti questi fenomeni, come tutti gli esistenti esistono. E questo, diciamo, da questo punto di vista non c'è differenza. Qui non c'è differenza. Però non puoi fare questa grossa minestra, nel senso che visto che non c'è dualità, perché c'è dualità, quindi la morte non esiste, perché la morte non la puoi negare, è una realtà convenzionale. Se tu neghi la morte, ha una coscienza convenzionale erronea, perché le persone nascono e muoiono, quindi non mi puoi negare questo. Se fosse solo apparenza. Ehi, sì. Alla fine non è esistenza. Nonostante tu muori. Forse dipende dall'organizzazione, dal livello dell'organizzazione della materia, perché se noi analizziamo la cosa a livello atomico non c'è, perché poi le cose si trasformano e sono fatte di segmenti. Se noi analizziamo la cosa a un livello più elevato, l'organizzazione, molecole, eccetera, eccetera, è molto più complessa e quindi troviamo delle cose diverse, no? Ok, va bene con questo, però qui siamo parlato anche del fatto che dov'è la componente coscienza nel vostro discorso? Ok? Perché la materia, va bene, la materia non scomparisce mai e non scomparirà mai la materia. Ha la sua continuità, cioè le particelle che compongono questo tavolo, possiamo tornare indietro e rintracciare la loro continuità al Big Bang a 14 miliardi di anni fa. Ok? Va bene, non c'è problema. Però, nonostante, la coscienza si associa con dei supporti e si separa di questi supporti. La separazione è quello che chiamiamo la morte. Tu non sei un... tu che... non so come ti chiami. Simone. Simono è nato un tot di anni fa e non si sa quando, ti spero ancora molti anni, ok? Muore. Il fatto che a un livello molto sottile la coscienza ha la sua propria continuità, nonostante Simone, che viene etichettato su questo corpo, non c'è più. Il fatto che tu cambi corpo, anche se non è così che accadono le cose, non è che la mente cambia corpo cioè come qualcosa che cambia recipiente, è una cosa molto più elaborata. Anche il fatto che la coscienza a un livello più sottile trasmigra, no? Cioè la sua continuità di istante, è come dei dominò messo uno dietro l'altro, no? Fate cadere il primo e avete questa continuità di istante che succedono uno dopo l'altro. Di questo che stiamo parlando, di questa continuità di coscienza. Il fatto che viene associata con un altro corpo, per esempio, sei un altro essere. Sei un altro essere. Sei incluso nella stessa continuità, ma sei un altro essere. E per esempio, l'esempio che facevo anche stamane ai studenti, no? Abbiamo due torce. Due torce. Abbiamo una torcia, no? Con una torcia ne accendo un'altra, ok? Non sono le stesse. Ma non sono diverse, ma non mi puoi dire che è la stessa cosa, che è la stessa, ma non mi puoi dire neanche che è completamente diversa. Quindi è un po' così, un po' così. Sono due parti della stessa unità, comunque, Sono come punto. diverse illustrazioni della stessa generalità, mettiamola così. Così Sono suona meglio. come? Così suona meglio, è più Sì. corta. Più preciso. Per esempio, nel buddismo si crede, sì, abbiamo questo pensiero, no? Che la vita o l'esperienza umana è un risultato di azioni virtuose. Sì, quando le azioni di un essere accumulato sono virtuose, altruistiche, allora le esperienze sono elevate come quelle dell'essere umano, con le felicità dell'essere umano. Se le azioni sono negative, l'esperienza può essere diversa, come quella di essere un animale, una cosa del genere. Quindi mettiamo, non te l'auguro, che nella prossima esistenza prendi rinascita come un cane. Sei sempre Simone? No. Però questi due esseri sono inclusi nella stessa continuità di coscienza. Nella stessa continuità di coscienza. Quindi l'essere di questa vita esiste soltanto in dipendenza del corpo e della mente di questa vita. Ciò che sorge come forma mentis o come aggregato fisico nella vita prossima, su questa base verrà etichettato l'essere della prossima esistenza. Però sono inclusi, racchiusi nella stessa continuità. Questo è da tempi senza inizio, e ancora ci sarà molte vite finché non realizziamo il modo di esistere della mente e dei fenomeni. Questo ci libera. C'è una domanda? Nella relativa al continuum, che cos'è esattamente il continuum? Il continuum. Allora, continuum. Allora, sì, vogliamo, la mente ha vari livelli, sono vari livelli grossolani e sottili di mente. Per esempio, allora, il livello più grossolano sono le coscienze sensoriali. Coscienza sensoriale è il livello più grossolano di mente. A un livello, una cosa un po' più sottile è la mente concettuale. La mente concettuale è un livello un po' più sottile. Però possiamo sperimentare ancora livelli di mente più, ancora più sottile, che sono al momento dell'indormentarsi. Quando ci indormentiamo, le menti grossolane, le coscienze sensoriali e la coscienza concettuale si dissolvono in uno stato di coscienza più sottile e viene reso manifesta la coscienza del sonno. Okay? La coscienza del sonno. Poi abbiamo anche la coscienza del sogno. Okay, sono anche stati di coscienza più sottile e al momento della morte anche, ve la faccio in un modo cioè ve la faccio breve, okay? Al momento della morte e questo viene anche manifestato al momento dell'indormentarsi, però facciamo diciamo così, al momento della morte tutto si dissolve, anche queste coscienze sottile si dissolve in ancora in uno stato di mente ancora più sottile che si chiama la mente di chiara luce. La mente di chiara luce è una mente non concettuale, è la mente sottilissima, è la mente la più sottile che possiamo manifestare, ok? Questo stato di mente, ok, è ciò che ha una continuità ininterrotta. Invece tutte le altre coscienze, diciamo, esistono in relazione a un vite particolare. Così, bene? Grazie. Quindi, che cos'è la continuità? La continuità è semplicemente la mente è un fenomeno impermanente, quindi dipende da cosa e condizione, quindi ha questo aspetto momentaneo. In uno schiocco di dito hai 65 stati di coscienza che sono prodotti uno dopo l'altro. Okay? Quindi, questa è la mente. E la mente, quindi, ha questo costituente, è un costituente della persona. La mente non è la persona. Non è la persona, è un costituente della persona, e questa mente si può manifestare diversamente indipendente di condizione cooperante. Per esempio, se c'è un colore che entra in contatto con un potere visivo che funziona, allora c'è un momento di coscienza visiva. La coscienza si genera come coscienza, la mente si genera come coscienza visiva. Se invece c'è un suono che entra in contatto con il potere uditivo, allora la coscienza viene prodotta nell'entità di una coscienza uditiva, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è che abbiamo molte coscienze, ne abbiamo una mente che prende varie forme, che si manifesta in varie, sotto vari aspetti, in dipendenza di condizione cooperante, come il potere sensoriale e l'oggetto di osservazione. La dialettica tra mente e materia, praticamente. Sì, ma abbiamo anche la coscienza mentale. Sì. No, dicevo, proprio su questo aspetto qui, a me pare che non sia proprio così. Ad esempio, no? Facciamo un esempio. Quando io mi sveglio la mattina, non è che sono un'altra persona, se fuori piove o se qualcuno mi ha offeso o se qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra causa, no? Anche interna, no? Mi abbia prodotto delle variazioni di umore. Io sono sempre io, altrimenti l'ospedale sarebbe pieno di persone in crisi di identità, no? Quindi c'è un aspetto permanente. No. Allora, il fatto che manteniamo, che abbiamo il ricordo delle proprie esperienze non implica la permanenza. Non è un ricordo, mi pare. Cioè, il fatto che la mia identità non è solo un ricordo, è un'organizzazione, è un'idea di me, è un'organizzazione di me, sì, sì, che è una caratteristica fondamentale della, sì, sì, no, della mente. Va benissimo. Quindi, e questa è per certi versi indipendente da quello che mi succede, anche dei miei stati emotivi, perché altrimenti io avrei continuamente delle crisi di identità, invece non è così. Normalmente le persone riescono a presentarsi lo stesso l'io, quello che sono, indipendentemente dalle variazioni contingenti. No? Allora, c'è la nozione di un io, c'è la nozione di un io, ok? Indipendenza di questa mente, quando vengono osservate la mente o le sensazioni o il corpo, c'è la nozione di un io che appare, okay? C'è la nozione di un io, ma questa nozione di un io non è indipendente dall'osservazione di queste varie componenti o di queste varie esperienze, perché se non c'è più, se non c'è il corpo, se non c'è il corpo e la mente, l'io non può essere rintracciabile. Quindi questo io esiste indipendenza del corpo e della mente, okay? Quindi non c'è un io che è indipendente, esiste indipendenza. Ok? Sì, sì, ma assolutamente, però non vedo dove nel mio discorso ho potuto generare quel tipo di dubbio. Allora, questo modo se non mi ricordo più i passaggi. C'è un altro aspetto che mi pareva. Allora, lei ha fatto i discorsi di vari livelli di coscienza, no? Quello grosso l'anno, più fine, eccetera. Ecco, queste cose a me pare non sono abbastanza dimostrate. Ad esempio le neuroscienze hanno recentemente dimostrato questi livelli che si possono effettivamente anche evidenziare, mentre quello che non è assolutamente dimostrato proprio dal punto di vista scientifico è appunto l'ultimo passaggio, cioè il fatto che questo spirito sottile poi passi a qualche altro, cioè in qualche altro essere. No, è chiaro che questo quello che hanno fatto, le uniche esperienze che sono stati fatti e che sono adesso in relazione al momento della propria morte, no? Quindi quello che accade di solito nella scienza occidentale è che quando c'è l'interruzione dell'attività cerebrale, questo viene dichiarato come una persona come morte, no? A quel momento. Quindi il grande meditatore sono stati osservati che due fino a certe volte anche tre settimane fino all'interruzione dell'attività cerebrale, l'interruzione anche del proprio respiro, diciamo, l'interruzione del respiro, c'è un'attività, ci rimangono un'attività molto debole a livello cerebrale, questi yogi, no? Hanno osservato anche per due fino a tre settimane il corpo non entra in questi stati di composizione, no? Quindi qui abbiamo, quando il mio maestro per esempio è passato nell'aldilà tre anni fa, è rimasto in quello che viene chiamato questa mente molto sottile, no? Gli yogi sono addestrati a dimorare in questa mente molto sottile e a realizzare il modo di esistere dei fenomeni con questa mente molto sottile. Lui è rimasto una settimana in questo stato, quindi per una settimana rimane dopo la sensazione del respiro, rimane un certo calore a livello del cuore e il corpo non entra in decomposizione, okay? Questo ci sono delle perplessità rispetto a questo. Poi a livello delle vite passate e delle vite future ci sono delle persone che io li conosco che hanno delle ricordi molto chiare, molto precise delle loro esistenze passate, che sono anche capaci di identificare persone, luoghi nelle loro vite passate. Questo accade, però questo è un altro discorso. Quindi ritorniamo al nostro testo, che okay? abbiamo un po' derivati. Quindi adesso entriamo in questa sezione che è quindi la generazione che tipo di consapevolezza della morte bisogna sviluppare. Viene scritto che per quelli che non praticano un sentiero spirituale, che non pratico un sentiero, la paura della morte si manifesta come, come una, cioè una paura o una, sì, una, un profondo dispiacere, una profonda tristezza dovuto alla separazione con i propri cari, no? In generale cosa? Dalla separazione con i propri cari, e questa è causata da un forte, forte livello di attaccamento, ok? Quindi invece quello che sarebbe più opportuno è non troppo di aver paura dovuta a questa separazione con i propri cari, ma dovremmo aver paura di che tipo di esperienza sorgerà dopo questa morte. Infatti la morte non è qualcosa da cui dobbiamo aver paura, quello che dobbiamo aver paura è la rinascita, è questo che è più angosciante, no? Perché la morte in sé, per quelli che sono addestrati, è un po' tornare a casa, però la rinascita, questo dipende di ciò che facciamo in questa esistenza. Quindi se abbiamo una vita virtuosa, etica, altruistica, se cerchiamo di eliminare le attitudini mentali distruttive, allora non abbiamo troppi problemi, non abbiamo troppi agitazioni. Se invece la nostra vita è stata una vita dove c'è poche virtù, poche azioni virtuose, non abbiamo avuto nessun controllo sulle proprie attività fisiche e verbali, allora potremmo sperimentare un po' di difficoltà. Quindi quello che si dovrebbe fare è assicurarci che la vita futura accade nelle migliori condizioni possibili. Quindi dovremmo per questo, in questa esistenza, porre la fine alle cause delle circostanze sfavorevoli nella prossima esistenza e stabilire le cause dei statuti superiori, okay? Di benessere definitivo. Quindi considerando questa paura, ci sono delle cose che sono, o considerando ci sono delle cose che sono sotto il nostro potere e che possiamo agire per fare in modo che la prossima esistenza sia nelle migliori, si tratta delle migliori condizioni, si passa nelle migliori condizioni. Ok? Quindi si dovrebbe contemplare questa impermanenza ancora e pensare quindi che senza dubbi ci dovremo separare di questa vita, ci dovremo separare di questo corpo, di tutte le risorse che abbiamo, di tutte le persone che conosciamo, di tutto quello che abbiamo accumulato in questa vita, tutto quello per quale viviamo in un certo modo. Non c'è, sicuramente verrà il momento nel quale dovremo lasciare tutto dietro. Non c'è dubbio. Quindi dopo bisogna vedere che cos'è veramente, dove vogliamo piazzare. Cioè, questo è un investimento, no? Cioè, investire tutta la nostra esistenza, tutta la nostra energia, la nostra intelligenza, semplicemente nell'accumulare esperienze o beni, servizi vari in questa esistenza, è un investimento a perdita in un certo modo, perché al momento della morte si lascia tutto dietro. L'unica cosa che è di beneficio al momento della morte è la virtù che abbiamo accumulato, le predisposizioni che abbiamo messo sulla nostra mente, le qualità che siamo stati in grado di generare, i difetti che siamo stati in grado di eliminare. Questa è l'unica cosa che è di beneficio al momento della morte. Okay? Questo lo vedremo in dettaglio, perché è il terzo punto di questa contemplazione in 9 cicli. Quindi quando incominciamo la contemplazione in 9 cicli, il primo, quindi abbiamo visto 3 radici, tre sezioni. Il primo è il contemplare o generare la certezza che la morte è certa, che la morte è certa, questo è il primo. Il secondo è il momento della morte è incerto, e il terzo è che al momento della morte niente di aiuto all'eccezione della pratica spirituale. Okay? Quindi queste sono i tre sezioni. Ciascuna di queste tre sezioni ha tre argomenti che vengono contemplati, quindi alla fine abbiamo quello che viene chiamato la meditazione in 9 cicli, 3 per 3. Quindi il primo, questo primo sezione è il contemplare che la morte è certa. Quindi questa ha tre sezioni, come dicevo prima. Il primo è riflettere sul fatto che la morte viene definitivamente, e quindi non lo possiamo evitare. Questa è la prima sezione. La seconda sezione, che la vita non può essere aumentata. La durata di vita non può essere aumentata, non può variare grandemente, è che diminuisce istante dopo istante. E il terzo è che mentre che siamo in vita è rimasto poco tempo per far qualcosa, ci è rimasto poco tempo. Quindi adesso entriamo nel dettaglio di questa triplice contemplazione. Quindi quando si tratta di questo primo passo, che la morte sicuramente dovrà sorgere e quindi non la possiamo evitare. Quindi possiamo prendere, quindi questa è una contemplazione, questa è proprio sto spiegando la meditazione per sviluppare consapevolezza della morte e generare un'attitudine. Lo scopo di questo, vi ripeto, lo scopo di questo non è di diventare depressi. Se diventate depressi è che non avete afferrato bene l'oggetto di meditazione. Lo scopo di questa contemplazione è di generare un'attitudine che sfrutta questa esistenza adesso. È una certa di... sì, ha come scopo di eliminare il procrastinarsi, no? Che abbiamo visto prima, no? Procrastinare, cioè dopo, cioè... Questa contemplazione ha come scopo che utilizziamo il tempo, l'intelligenza che abbiamo, le condizioni che abbiamo adesso, perché domani non si sa, questo è lo scopo. Quindi sì, dopo questa contemplazione o quello che vi sto dicendo, siete depressi, che non avete capito bene. Bene, quindi il primo argomento, qualsiasi tipo di corpo che dobbiamo assumere al momento della nascita, qualsiasi tipo di essere che abbiamo, che siamo, che possiamo osservare, tutti devono morire. Non c'è una persona che non muore, qualsiasi ha la sua forza fisica, qualsiasi il suo potere sociale, qualsiasi il suo potere economico, magari che sia un mendicante o un imperatore, un presidente della Repubblica o una persona che ha una funzione più comune all'interno della società, tutti sono uguali, devono morire. Non c'è niente, non c'è nessuno che può evitare questa cosa, quest'evento. Non c'è c'è una massa di denaro che può ostacolare la morte, non c'è un potere fisico, un potere sociale che può evitare questa cosa. Quando il momento della morte arriva, non c'è niente da fare, si muore. Quindi anche qualsiasi realizzazione spirituale, no? Qualsiasi gli ottenimenti spirituali che possono essere ottenuto, guardate anche degli esseri santi come c'è Padre Pio, c'è il Buddha, ci sono tutti questi Madre Teresa, eccetera. Tutti questi esseri che avevano delle qualità di mente straordinarie, anche loro, quando è arrivato il momento, sono morte. Quindi qualsiasi tipo di corpo che abbiamo, la forza fisica, qualsiasi il tipo di potere, qualsiasi tipo di essere che abbiamo, le qualità che abbiamo generato, siamo tutti uguali, dobbiamo morire. Anche il Buddha se n'è andato. Quindi anche i propri maestri se ne vanno, è sempre un shock quando questo accade, però anche i propri maestri se ne vanno. Non c'è, da questo punto di vista non c'è niente che possiamo fare. Quindi questo è il modo di pensare. Poi possiamo riflettere sul fatto che anche non c'è un luogo, abbiamo visto, non c'è un supporto fisico che può evitare la morte, ma non c'è neanche un luogo dove siamo al riparo della morte, al cuore delle montagne, nel fondo degli oceani, tranquilli a casa. Quando arriva, arriva, non c'è una possibilità, non c'è un luogo dove siamo protetti di questa cosa. Infatti, se guardiamo bene, la morte non è un processo che arriva dall'esterno, abbiamo visto, no? È un processo interno, semplicemente perché siamo nati, dobbiamo morire. Questo è un processo naturale, quindi dovuto al fatto che il corpo è causato, dovuto al fatto che la nascita è causata, deve cessare, perché dal momento in quale, l'istante dopo la sua produzione, c'è già l'entrata nello stato di disintegrazione. Quindi, infatti, se guardiamo le cose in un certo modo, da quando siamo nati e cominciamo a morire, da un certo punto di vista. Quindi non c'è modo di evitare questo evento fatidico della nostra esistenza. Infatti è l'unica certezza in questa vita, cioè l'unica certezza è questa. Tutto il resto è un po' nello spazio, ma questo... Quindi qualsiasi il tipo di corpo che abbiamo, qualsiasi il tipo di potere che abbiamo, qualsiasi il tipo, qualsiasi il luogo dove viviamo, cioè è impossibile evitare questa cosa. Quindi il secondo aspetto di questa prima, quindi siamo all'interno della contemplazione, stiamo cercando di generare una certezza, una consapevolezza che la morte è certa, ok? È questo che cerchiamo di fare. Quindi abbiamo visto il primo, è che la morte definitivamente deve arrivare e non c'è modo di evitarla. Il secondo è il contemplare che la vita non può essere, non si può aggiungere anni, si può aggiungere anni in più, ok? E che diminuisce costantemente. Quindi al massimo possiamo vivere intorno a 100 anni, più o meno 100 anni. Al di là di questo non si può andare, nel senso che non possiamo vivere 400 anni, non possiamo vivere 200 anni, è impossibile questa cosa. Non c'è un metodo che ci permette di prolungare la vita fino a 500 anni, ci sarebbe piacevole, però non è possibile, non esiste questa cosa. Quindi più o meno viviamo 100 anni e tutto va molto velocemente. Non so se vi siete accorti di questa cosa, ma quando in termini di giorni o di ore sono tanti, e le cose possono eventualmente anche passare abbastanza lentamente, a livello quando ci giriamo e guardiamo indietro, vediamo che così tanti anni sono già passati, no? E non c'è modo di recuperarle. Quindi il tempo passa velocemente, gli anni sono composti di mesi, i mesi sono composti di settimane, settimane sono composte di giorni, i giorni di ore, le ore in minuti, i minuti in secondo. È tutto è un flusso continuo. Il tempo non si ferma mai, non si ferma mai. Quindi la vita diminuisce senza interruzione, ok? Proprio senza interruzione. Quindi infatti a certe volte in un trattato c'era immagini simpatiche, diceva che questa vita è come il cadere di una montagna, come si dice, di un precipizio, no? Dice, durante la caduta non c'è veramente ragione per fare la festa, eccetera, eccetera, perché c'è questa caduta, okay, che non si ferma, e l'unica certezza è l'impatto al momento o un altro. Quindi non c'è molto tempo per rallegrarsi durante questa caduta, okay? Quindi questo è un modo molto, molto serio di vedere la cosa. Però diciamo che istante ogni istante, secondi dopo secondi, respiri dopo respiri, la nostra vita sta andando verso la sua fine, no? È come questa cosa di sabbia che si gira, ma era come si chiama? Cressidra. Ok? Quindi ogni grano di sabbia sono i giorni, istanti della nostra vita, e questa cosa continuamente si sta esaurendo. Okay? Quindi, la direzione nella quale andiamo dopo istante, quindi è verso la nostra fine. Non è possibile interrompere o rallentare questo processo. Questa è una cosa molto importante. Quindi nei trattati dicono che si dovrebbe contemplare tramite molti esempi questa ininterruzione del processo dell'avvicinamento della propria morte. Infatti i meditatori dell'India o del Tibet prima andavano proprio vicino alle cascate si dice così? Sì. Le cascate, vicino ai torrenti, dove c'era questo aspetto di flusso veloce e rapido, di flusso veloce, e calcavano questo flusso con la velocità con la quale si avvicinavano alla propria morte, no? Per sviluppare questa consapevolezza. Quindi noi possiamo prendere l'orologio e vedere che ogni secondo, ogni respiro, ok? E più trovate una divisione di tempo piccola, più vi dà questa sensazione di velocità. Quindi avete, se è possibile adesso, a vedere gli orologi che vi danno anche al decesimo di secondo, al centesimo di secondo. Quindi a esattamente questa stessa velocità la nostra vita si sta finendo. Quindi non c'è troppo tempo da perdere in varie attività triviali. Questo non significa che non dobbiamo prendere delle vacanze, distrarci, eccetera, eccetera, però non dobbiamo solo far questo, perché alla fine non è di beneficio, non è di nessun beneficio. Qualsiasi le esperienze favorevoli che possiamo accumulare durante l'esistenza, no? La nostra esistenza in generale cerchiamo di accumulare esperienze piacevoli anche con persone, con situazioni, andiamo dall'altro lato del globo per passare delle vacanze, eccetera. Alla fine, quando torniamo, non è che le cose hanno cambiato. E poi al momento della morte, una persona che è rimasta a casa, un'altra che ha viaggiato dappertutto, la stessa cosa. Cioè, tutte queste esperienze non hanno grande utilità al momento della morte, ok? Quindi siamo tutti uguali, tutte queste cose rimangono solo dei ricordi, e forse anche agiscono contro di noi, perché fanno che la nostra mente si deprime e rimane attaccata a questa vita. Quindi questo sarebbe un problema anche, lo vedremo più avanti. Quindi questo è proprio il modo di riflettere, no? Dobbiamo pensare a queste cose. Qui vedete cosa ho dimenticato qui. Quindi sì, questa è una consapevolezza molto, molto facile da sviluppare da un certo punto di vista, perché se guardiamo intorno a noi tutto insegna l'impermanenza, la notte che viene dopo il giorno, le stagioni, le macchine che passano, cioè gli uccelli che volano nel cielo, tutto insegna l'impermanenza, no? Quindi tutto questo dovrebbe aiutarci a riportare questa consapevolezza che un giorno dobbiamo andare. E vi dico, lo scopo di far questo è semplicemente che con questa attitudine, con questa comprensione, la mente naturalmente c'è un ridimensionare delle proprie priorità della vita, c'è un ridimensionare le proprie priorità, che cosa è importante, che cosa non è importante. Automaticamente abbiamo visto che c'è un distacco rispetto all'ottenimento di vari possedimenti, delle varie esperienze, servizi, eccetera, ossia c'è oggetti. Automaticamente quindi abbiamo anche la mente si fabbrica molto di meno tutte queste afflizioni mentali, c'è un guadagno quindi di serenità. Ogni volta che la mente incomincia a entrare in contatto con la vita, come il modo di esistere nelle cose, la mente ne guadagna in serenità. Okay? Tutto molto delle nostre nevrose, delle nostre, si dice in italiano nevrose? I nostri problemi, le angosce che abbiamo, le sofferenze che sperimentiamo, è perché la nostra mente non è al modo di relazionarsi con l'esterno, con l'ambiente, che non è in accordo al modo di essere dell'ambiente, non è in accordo al modo di dimorare, al modo di essere dei fenomeni e dell'ambiente. Noi abbiamo questa sovraimposizione di permanenza, e dovuta a questa sovrapposizione di impermanenza, automaticamente ogni volta che siamo confrontati alla natura delle cose, che è quella di essere impermanente, c'è un impatto violento sulla propria mente, sulla propria esperienza. Quindi entrare in contatto con il come le cose esistono, anche a livello convenzionale, come il fatto di essere impermanente, la mente automaticamente guadagna in serenità. È qualcosa di riflettere sull'impermanenza. Non pensate, cioè, persone che non hanno mai provato a fare quel tipo di contemplazione pensano che può essere un po' disturbante riflettere su queste cose. Infatti, dopo diventa qualcosa di molto piacevole, perché la mente entra in contatto con come sono effettivamente le cose, cioè entra in contatto con un certo aspetto di verità, no? Di verità. E il contatto con la verità, il contatto con la realtà è qualcosa di molto piacevole, è qualcosa che apporta serenità, che apporta benessere. Quindi il terzo punto di questa seconda sezione è la contemplazione mentre siamo in questa vita, è rimasto poco tempo per la pratica spirituale. Quindi abbiamo visto la morte certa, ogni istante ci avviciniamo della morte, ok? E mentre che siamo in vita è rimasto poco tempo. Si prendiamo una giornata, mettiamo la giornata di una persona che desidera passare del tempo alla pratica spirituale. Già passiamo 8 ore a dormire, quindi su 24 ne possiamo eliminare 8. Poi dobbiamo farsi la doccia, dove abbiamo i vari bisogni naturali, ok? Dobbiamo fare la spesa, dobbiamo preparare da mangiare, dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo riposarci, perché dopo il lavoro bisogna anche riposare, dobbiamo prendersi cura di una famiglia, per quelli che hanno una famiglia. Alla fine rimane pochi minuti in una giornata, pochi minuti per consacrare del tempo a qualcosa di così significativo, no? Pochi minuti. Quindi pochi minuti, anche se pensiamo che potremmo vivere per 5 anni, scusate, per 60 anni, anche se prendiamo una vita di 60 anni, se mettiamo tutti questi minuti insieme, il calcolo è che più o meno sono 5 anni. Su 60 anni sono 5 anni dedicati alla pratica spirituale. Quindi per noi per molti di noi che non hanno 60 anni da vivere, ok? Ci è rimasto poco tempo, quindi dobbiamo cercare di mettere queste cose in azione, in attività, ok? Quindi noi passiamo molto tempo, per esempio, nella sala da bagno, cioè un sacco di tempo nella sala da bagno, no? A pettinarci, a mettere le varie creme, ok? C'è la doccia, tutte queste cose. Se vogliamo trovare un po' di tempo, cerchiamo di passare un po' meno di tempo nella sala da bagno, cioè 5 minuti di meno al giorno. Alla fine di una settimana sono 30 minuti. 30 minuti economizzati sulla sala da bagno, che potete meditare, potete fare delle altre cose. Quindi il tempo si può sempre trovare, no? Il corpo è un investimento a perdita. Il corpo è un investimento a perdita perché lo lasciate dietro. Adesso tutta la nostra vita è intorno al corpo, no? Tutta la nostra vita. Quindi dobbiamo lavorare per vestirlo, dobbiamo lavorare per nutrirlo, dobbiamo lavorare per fare in modo che sia in posizione confortevole quando è seduto, quando è sdraiato. Dobbiamo anche migliorare il colore del corpo, questa facciamo anche. quindi tutto questo, cioè, è un investimento a perdita, perché il corpo comunque non possiamo evitare che degenera. Il corpo degenera, ok? A un certo punto tutti gli organi crolleranno uno dopo l'altro, e questo sopporto, che è il sopporto dell'attaccamento a più pronunciato che abbiamo, diventerà una fonte di grande sofferenza per noi. Cioè, è obbligatorio questa cosa, e comunque lo lasciamo dietro, non ce lo portiamo con noi. Quindi invece la mente è la cosa che continua, ma non è che facciamo, ci prendevamo almeno metà della cura che mettiamo sul corpo, se la mettiamo sulla mente, vi assicuro che in questa vita diventiamo dei santi. Cioè, otteniamo delle realizzazioni, sviluppiamo delle concentrazioni straordinarie, possiamo realizzare l'impermanenza sottile, delle grandi qualità, però tutto il nostro impegno, lo mettiamo sul corpo. Però vi dico, è un investimento a perdita, me lo dico anche a me, cioè, mi fa bene ripetere queste cose perché le sento, è un investimento a perdita. Okay. Quindi io penso che per stasera ci fermiamo qui, sono andato molto al di là. C'è un paio di domande, eventualmente, prima di andare a dormire, di entrare in coma per non so quante ore. Sì. Una spiegazione, perché hai accennato a questa mente non concettuale. Esatto. Volevo capire un po' meglio. Cioè, se non è concettuale... È un percettore diretto. Quindi, qui non le siamo a letto adesso. Pensavo che era una cosa breve. Abbiamo vari tipi di mente, tramite queste varie tipi di mente, vari tipi di possiamo generare, abbiamo delle mente, mente concettuale o dei percettori, si chiamano percettori inferenziali, delle menti inferenziali, ok? O dei percettori diretti. Quindi la mente sensoriale, una coscienza sensoriale è un percettore diretto, perché realizza il suo oggetto direttamente, dal potere dell'oggetto la mente lo realizza. Okay? Quindi realizzare, okay, il bicchiere, non ho bisogno di un processo, di fare un processo di ragionamento. Lo realizzo direttamente dal proprio potere dell'esistenza dell'oggetto, e l'oggetto è manifesto ai miei sensi. Essendo manifesto ai miei sensi, lo realizzo direttamente. Quindi le menti sensoriali sono necessariamente dei percettori diretti. Okay. Poi c'è il caso dei fenomeni, leggermente nascosti. Quindi i fenomeni leggermente nascosti sono dei fenomeni che non sono manifeste alla mente. Questi fenomeni vengono realizzati tramite il ragionamento o tramite il processo, tramite l'osservazione di un segno o di una ragione. Quindi faccio l'esempio che in questi giorni ripeto tutti i giorni. Okay? Quindi quando quello che troviamo nei testi, no? Andate a passeggiarvi nella campagna toscana, ci sono delle colline, e in sommità di una collina vedete del fumo, ne potete dedurre l'esistenza del fuoco. Okay? Quindi l'esistenza del fuoco, la coscienza che realizza questa coscienza che realizza l'esistenza del fuoco tramite l'osservazione del segno fumo, è una coscienza inferenziale valida che realizza il suo oggetto fuoco tramite l'osservazione del segno fumo. Questa è una mente concettuale. Quindi una mente concettuale è una mente che realizza il suo oggetto non direttamente, ma tramite una generalità del significato, una rappresentazione concettuale. La rappresentazione concettuale non è l'oggetto stesso, è una riduzione della realtà. Per esempio, dicevo prima, no? si pensa alla propria casa. Quando pensiamo alla propria casa, c'è un'immagine della propria casa che sorge alla mente. Questa è una mente concettuale. Quindi realizza l'oggetto casa non direttamente, ma tramite una rappresentazione concettuale. Okay? Questa è la mente concettuale. Quindi noi utilizziamo la mente concettuale molto. Okay? Quindi abbiamo la mente concettuale e percettore diretti, o mente non concettuale. Un percettore diretto è una mente non concettuale. Ci siamo? Ok, sì. Volevo chiederti, tutti questi discorsi che peraltro condivido sulla morte, sul tempo, sul divenire, però presuppongono una concezione del tempo lineare in cui c'è un passato, un presente, un futuro, gli istanti che si susseguono, e va bene, però è una delle tante concezioni che si possono avere del tempo, magari, non so, grossolano. Perché io ho sentito, non so quanto siamo conformi con la dottrina buddista, concezioni quali l'eterno presente, oppure l'unico istante, oppure realtà condensate in cui anche in questo stesso momento, ad esempio, Buddha sta nascendo, si sta illuminando, eccetera. E quindi anche sotto queste ottiche, che mi rendo conto sono modi di pensare, sì, poi ci sono alternativi. Sì. Sì. Però la morte assume tutto un altro significato. Possiamo divagare finché vogliamo. Forse volevamo parlare della morte, cioè del momento della morte, di come questa vita può servire a preparazione della morte. Cioè, lo scopo, sì, diciamo, lo scopo del nostro incontro è non è troppo di filosofare sul concetto del tempo, sul concetto della morte, è qualcosa di, volevo metterlo molto più pratico, ok? Però è giusto che ci sono varie modi di presentare i tre tempi, ok? Quindi se vogliamo fare una parentesi di qualche secondi, per esempio nella scuola, ci sono varie scuole di filosofia all'interno del buddismo, e prasangika, la presentazione del tempo è diverso di quello che possiamo presentare noi. Per esempio, per noi il presente, per il prasangika, il passato corrisponde alla non esistenza di un fenomeno, il futuro corrisponde alla produzione di un fenomeno. Quindi tutta questa cosa non è in relazione, il passato, il presente e il futuro non è in relazione all'osservatore, ma in relazione a un fenomeno. Quindi a un certo, seguendo questo discorso, a un momento precedente, il passato, il presente e il futuro varie dipendendo di come ti allini, siamo allineati in relazione a un fenomeno particolare. Però questo è un altro discorso. Si è fatto tardi, adesso quindi di tradizione, visto che abbiamo accumulato molta energia virtuosa, molte con le nostre riflessioni, cercare di capire queste varie concetti difficili, okay, si dovrebbe questa energia virtuosa, andiamo a fare in modo che non si perde in esperienze singole all'interno dell'esistenza ciclica, o che non vengono distrutti dall'avversione o dalla collera, perché la collera o l'avversione distrugge la virtù che creiamo. Quindi andiamo a dedicare tutte queste energie virtuose affinché tutti gli esseri possano ottenere la felicità, okay? Che i loro desideri siano esauriti, in particolare perché noi otteniamo molto velocemente lo stato di Buddha e quindi diventiamo una fonte di felicità per tutti gli esseri. Andiamo anche a dedicarla finché tutti i maestri autentici che insegnano il sentiero verso la felicità e la fine della sofferenza abbiano una lunga vita, okay? E affinché gli insegnamenti del Buddha, ma anche gli insegnamenti che sono dei sentieri spirituali validi, che aiutano gli esseri a ottenere più grandi livelli di felicità, dimorano a lungo in questa terra. Okay? Questo io lo faccio in tibetano perché ho l'abitudine di recitare questa preghiera. Voi potete pensare a questo e a dedicare tutta questa energia in questo modo. Grazie. Inghe, Brahma Jinyamaloka Desanamunani Jamjo Sanjo Rimboje Amagya Panam Yigyuji Yama Yama Yama Gone Gondu Peruajo Gale Rave Gale Chinkande Dandam Deva Malunjuve Chandra Zivan Denvi Gapsavayi Shabbos in the Pandu then use you. That's what you need. Sabe Gilwadi. Dem Dan Drawa Kuna Gambeda. Yama Jesu Nazara Pai. Tembe Yambo Rindu Senji. Ringrazio per la vostra pazienza. Quindi, noi ci ritroviamo mercoledì alle 9. Chi vuole venire? Come si fa a spegnere? Come si farà a spegnere sto coso? Ah, non me lo dire a me, aspetta un po'. Questo. Questo è per registrare. E non è anche per ristopparlo? Ripeto.